Abbiamo appunto recentemente, proprio finito 10 giorni fa, la nostra rassegna estiva dei concerti dove le musiche si incrociano snodi, ma ricominciamo subito, anzi abbiamo già ricominciato il 24 settembre con appunto i nostri classici appuntamenti autunnali che dureranno fino all'11 dicembre 2021, dedicati proprio alla musica, alla lunghissima musica del secolo breve. Diciamo musica a 360 gradi. Noi, malgrado siamo un museo e quindi tutti si immaginano sempre, diciamo, una cosa un po' paludata, a noi in realtà piace parlare di tutta la musica senza esclusioni, per cui come ogni anno facciamo anche quest'anno all'interno della macro rassegna appunto 900 musicisti racconti dei musicisti, troveremo diversi cicli. Appunto, come hai ricordato tu, il 24 settembre abbiamo cominciato con questa, sì, un'iniziativa totalmente nuova che facciamo assieme a uno dei nostri partner, che è Bologna Jazz Festival, che sono i Blind Date Concert. Sono concerti, incontri sonori improvvisati al buio, ma letteralmente al buio, perché nessuno sa, a parte noi, quali saranno i musicisti che si incontreranno nelle date dei concerti. La cosa divertente è che non lo sanno neanche i musicisti, che si trovano quando arrivano in museo sul nostro palco di fronte il loro partner per la giornata, e non lo sanno neanche i spettatori, per cui quando bisogna fidarsi, ecco, per venire a uno dei nostri Blind Day Concert bisogna avere fiducia, diciamo, nelle nostre scelte. Devo dire che il primo concerto è stato assolutamente strepitoso, per cui insomma di solito ci prendiamo, siamo pur sempre il museo della musica. Continueremo la rassegna continua poi il primo settembre. Gli appuntamenti sono tanti, quindi non è che mi voglio dilungare a spiegarli tutti, anche perché ovviamente il programma è disponibile sul nostro sito. Diciamo che i tre grandi cicli su cui si sviluppa 900 sono gli stessi su cui si sviluppa, diciamo, tutta la tradizione musicale del 900. Cominceremo con Good Vibrations, che è il ciclo in cui racconteremo in parole e musica il 900, in particolare della musica, quella che normalmente viene detta musica leggera, musica pop, ma che di leggero insomma non ha assolutamente nulla, perché anzi i musicisti che affronteremo sono sono nell'Olimpo del rock e della musica pop del Novecento. La formula è divertente ed è particolare, perché chiameremo a suonare ovviamente i musicisti, ma a parlare gente che con le parole ci lavora tutti i giorni, cioè degli scrittori. Quindi saranno degli scrittori che verranno a raccontare appunto la loro mitologia dell'Olimpo musicale del Novecento attraverso le proprie interconnessioni, le proprie connessioni con un artista da loro amato. Quindi cominceremo venerdì 1 ottobre alle 17:30, tutti gli appuntamenti sono sempre alle 17:30, quindi in orario tardo pomeridiano, con Simona Vinci, che non ha bisogno di presentazioni, che ci racconterà le luci e le ombre di Joni Mitchell in questa narrazione musicale, accompagnata dal live di Camille Spertieri, che ha una voce molto bella, molto magnetica, e il pianista Lorenzo Mazzocchetti. Stessa cosa succederà per le settimane successive, quindi per esempio venerdì 8 ottobre alle 5:30 Giorgio Fontana, che tra l'altro credo abbia appena vinto il Bancarella, ci racconterà, entrerà dentro i versi di Leonard Cohen, questo è proprio il titolo dell'appuntamento, e in questo sarà accompagnato da Acoustic Playing Cohens, che sono due musicisti che affrontano appunto questo e ovviamente anche loro rivedono il repertorio, perché a noi non interessa fare le cover band. Diciamo. Emiliano Visconti la settimana dopo, il 15 ottobre, affronterà Panamericana con due musicisti colombiani, quindi un viaggio musicale in America Latina, da Atahualpa Yupanqui a Mercedes Sosa. E l'ultimo appuntamento del mese invece sarà dedicato, sarà un Reverse Vibration, perché in questo caso verrà non parleremo di un musicista, ma parleremo, ci saranno i musicisti che parleranno di uno scrittore. In questo caso è un appuntamento dedicato alle città invisibili di Calvino, quindi ci sarà un attore e due musicisti che parleranno di questo. Questo è solo ovviamente il primo ciclo. Poi proseguiamo invece nel mese di novembre, e lì si intersecheranno gli altri due cicli. Partiremo il 5 novembre, in realtà partiamo il 26 ottobre, ma con un'installazione trasmissione sonora dedicata a una cosa che nessuno sa che esiste a Bologna. Quest'anno abbiamo festeggiato i 50 anni del DAMS, ma in realtà 50 anni fa, sempre nel 1971, è nato qui a Bologna, al Conservatorio di Bologna, il primo corso di musica elettronica. Quindi festeggiamo i 50 anni anche di questo con una installazione sonora che sarà disponibile fino al 14 novembre in orario di apertura del museo. Questa installazione si chiama Continuum ed è fatta proprio da il collettivo di sound design del Conservatorio Giambattista Martini, con cui ovviamente facciamo queste iniziative in collaborazione. Invece dal 5 novembre ogni venerdì, sempre alle 5:30, ci saranno vari appuntamenti dedicato al ciclo che noi chiamiamo Ultima Musica, sarebbe la contemporanea di questo e di altri secoli. Andremo a indicare, appunto, diciamo, indagare le musiche, le espressioni artistiche del Novecento, della musica colta del Novecento, lontane e diversissime tra loro. E in questi 6 appuntamenti, per esempio, riprenderemo gli anniversari musicali dell'anno. Quest'anno sono i 70 anni, per esempio, dalla prima delle Metamorphosis After Covid di Benjamin Britten, sono i 50 anni dalla prima di Vox Balene di George Crumb, che è un altro dei brani storici della musica cosiddetta contemporanea, della musica colta del Novecento, in cui tra l'altro i musicisti devono suonare bendati, ed è richiamato proprio, già dal titolo si capisce, è un omaggio ai canti delle balene, rivisti da uno dei più grandi compositori del Novecento. Quest'anno è anche il cinquantenario della morte di Igor Stravinsky e per lui invece riprenderemo l'Histoire du Soldat, quindi la rimetteremo in scena assieme ai musicisti del collettivo Innova Fert. E poi gli ultimi 2 appuntamenti, il primo a cui teniamo molto perché avremmo voluto festeggiare i 90 anni di Silvano Busciotti, che possiamo dire è uno degli ultimi mostri sacri della musica del Novecento. Purtroppo però Busciotti, come probabilmente avrete sentito dai media, dai giornali, è morto qualche giorno fa. Purtroppo non riusciremo a festeggiare in presenza con lui i suoi 90 anni, ma sarà una cosa in memoriam che faremo. Il titolo è Non fare il minimo rumore, che è una delle sue dei suoi celebri calambur, delle sue frasi mitiche, assieme a Tempo Reale e alla voce di Monica Benvenuti, che è stata un po' la sua voce iconica e musa ispiratrice soprattutto dell'ultimo periodo. Il ciclo finisce poi il 3 dicembre con un concerto imperdibile del violoncello preparato, del pianoforte preparato di Francesco Guerri e Fabrizio Puglisi. Questi sono i venerdì, ovviamente, di novembre, perché invece in tutti i sabati inizieremo il terzo ciclo, che è Jazz Insight. Essenzialmente è una reprise del ciclo che purtroppo avremmo voluto fare l'anno scorso, ma che causa Covid è stato annullato. Noi di solito per il ciclo del jazz ci affidiamo agli anniversari musicali dell'anno, vediamo quali sono gli anniversari e assieme a, diciamo, quel genio del pianoforte jazz e della narrazione musicale, che sono due cose che normalmente non vanno tanto d'accordo, perché trovare musicisti che sono anche capaci di parlare così bene è molto raro. Abbiamo deciso però di riprendere gli anniversari dell'anno scorso, quindi sarà una versione un po' strana, perché tutti gli anniversari non saranno tipo, non so, il centenario, il settantenario, il cinquantenario, ma i 50 più 1, 70 più 1, 100 più 1. Solo che l'anno scorso abbiamo dovuto lasciare, causa Covid, indietro l'anniversario di Charlie Parker, di Sarah Hogan, di Dexter Gordon, di Django Reinhardt, di John Lewis e del Model Jazz Quartet, e recuperiamo tutto quest'anno. Non potevamo farlo, come non potevamo lasciar perdere un anniversario molto caro alla Bologna Jazz, che è quello della morte di Steve Grossman, che è venuta purtroppo proprio proprio l'anno scorso. Steve Grossman era, come dire, è da tutti conosciuto come il sassofonista di Miles Davis. A soli 19 anni è entrato nella band di Miles Davis, scelto proprio da lui, è stato uno tra i massimi solisti della sua generazione, ma non, forse il grande pubblico non sa che per molti anni ha abitato in Italia e per molti anni ha abitato proprio qui, ha soggiornato a Bologna, e la sua influenza è stata determinante per la scena musicale della città. Lui è stato la guida di più di una generazione di giovani musicisti che nel primo appuntamento di Jazz Inside, che sarà invece sabato 30 ottobre, tutti gli appuntamenti con il jazz sono tradizionalmente al sabato sempre alle 5:30, diciamo questo incontro ci sarà sempre, ovviamente sarà sempre condotto da Emiliano Pintore sul pianoforte, ma la solita selezione di materiali inedito, di repertorio, sarà arricchito in questo caso dalle testimonianze di parole e musica di tutti i musicisti, io non proprio tutti perché sennò ci vorrebbero 6 ore probabilmente, ma di molti dei musicisti che con il grande appunto sassofonista newyorkese ma bolognese d'adozione hanno condiviso la vita e la carriera. Jazz Insight appunto quindi parte sabato 30 ottobre, finirà 6 sabati dopo il 4 dicembre. Allora l'ultima cosa che devo dire, ovviamente sul sito gli appuntamenti già a partire dal 1 ottobre sono già disponibili, i programmi disponibili, i biglietti si possono acquistare a prezzo molto politico, 6 euro e 5 euro per i possessori della card e gli under 18 e gli studenti universitari, si possono già acquistare sul sito sia online che anche qui direttamente al bookshop del museo.